Lo psicologo deve definire i fatti adeguati. Una persona che gli viene detto una cosa tipo non ti amo, allora è trauma. La persona si chiude in se stessa, e è soggetta a morte certa. Secondo la psicologia Pigotta, si risecchisce come una pianta e viene trovata secca, che ovviamente si può bruciare. Questo secondo la psicologia è la chiave dell'amore. Psicologia for Dummy capitolo V trauma 69 bis.